La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci, ben ritrovati alla Rosa Purpurea. Siamo arrivati al momento del cinema qui su Radio 24. Tutto il cinema che c'è, e ce n'è davvero tanto in questo weekend. 11 nuovi film sono arrivati nelle sale in questa settimana. Tante anche le proposte interessanti di cui parlare e da sviscerare. Tanti gli ospiti di questa puntata, a partire da Anne Fontaine, regista di Agnus Dei, che è sicuramente uno dei, se non il film della settimana, ma parleremo anche con Emanuela Martini, direttrice del Festival di Torino, che è cominciato proprio in queste ore. Andiamo con ordine allora, che entriamo subito nel vivo del clima del weekend cinematografico con la prima delle novità di cui vogliamo parlarvi, un film passato alla 73esima mostra del cinema di Venezia, si intitola Animali Notturni. Lo sai che devi fermarti quando c'è un incidente? Sì, lo so. E perché non l'hai fatto? Non si lascia il luogo dell'incidente, è un reato. Visto il modo in cui guidava. Scusa, che hai detto? Ho detto solo che guidava come un pazzo. Ehi, Turk! Non vi avvicinate! Tranquilla, va tutto bene. Vi prego, tornate in macchina e lasciateci spazio. Ehi, signora! Si calmi, dobbiamo scambiarci i dati, tutto qui. Calma, tranquilla. È una torcia, tesoro, è solo una torcia. Avete sentito il clima veramente teso di questa scena, ma è una scena che avviene, se vogliamo, come gran parte del film, nella testa della protagonista. Sì, perché Animali Notturni di Tom Ford racconta di una mercante d'arte che vive una vita super agiata, ma vuota, con una parte sentimentale piuttosto scadente. Durante un weekend riceve un manoscritto dal suo ex marito, Edward, con cui non ha contatti da anni, ma che è un importante scrittore. È il nuovo romanzo del marito, e lei si immerge talmente tanto in questa lettura da dimenticare il confine fra realtà e finzione, anzi da far diventare la finzione realtà, come avete sentito. Tom Ford segue questa specie di flusso, no? Questo streaming mentale, e fa diventare il suo film due film, quello della realtà, della mercante d'arte, e quello del romanzo che noi vediamo e sentiamo insieme a lei e con Susan, con la protagonista. Cadiamo in un vortice di inquietudine che chiaramente si riflette anche sulla vita reale, come dicevo, tanto da non riuscire più a vedere netti i confini fra un mondo e l'altro. Amy Adams, straordinaria protagonista, ma Jake Gyllenhaal nella parte appunto del protagonista maschile è altrettanto straordinario. Michael Shannon, sceriffo senza tanti scrupoli, è ancora una volta in uno dei suoi ruoli indimenticabili, per un film che ha sicuramente la stilosità, passatemi questo termine, di un regista come Tom Ford, di uno che arriva dalla moda, che ha quel suo mondo un po' patinato e che soprattutto vediamo nella parte reale, fra virgolette, del film. E invece ha una sorprendente capacità di creare inquietudine, quasi alla Non è un paese per vecchi, per intenderci, in quella parte immaginata che si svolge nei deserti degli stati centrali degli Stati Uniti, in mezzo ai rovi, in mezzo ai cactus, in mezzo alla polvere, dove precipita la storia di questa famiglia che abbiamo sentito nella prima clip. Un film davvero interessante, sorprendente per certi versi, e altrettanto pittorico in un certo senso, tanto che abbiamo voluto avere qui con noi La Rosa Purpurea, in questo primo film, Ilaria Floreano, che è una collega ma anche un'autrice, ha appena scritto un libro che si intitola Volevo dipingere la luce del sole, ed è un film dedicato al grande Hopper, al grande pittore Edward Hopper, tra vita, opere e film. Ilaria, benvenuta alla Rosa Purpurea. C'è sicuramente qualcosa delle tematiche di Hopper anche in questo Tom Ford davvero sorprendente. Buongiorno Franco ma a tutti gli ascoltatori. Sì, sicuramente c'è molto di Hopper, come spesso accade in molti film, anche quelli che non sembrano particolarmente figurativi o non sembrano analizzare o argomentare tematiche che sembrano affini a quelle affrontate da Hopper, eppure Hopper ricorre spesso, ed è uno dei temi che io affronto nel libro. In questo film di Tom Ford basti pensare a quello che dicevi tu prima: Amy Adams vive una vita apparentemente perfetta, ma in realtà mossa da profondi grande inquietudini. C'è una coppia che in realtà non è più coppia, ma comunque fortemente legata da un sentimento per certi versi morboso, e già questi due elementi si possono ritrovare nel corpus pittorico di Edward Hopper, che viene considerato, e io lo considero tale, molto cinematografico, perché dentro una composizione formale precisa, a rischio di sembrare algida, come talvolta possono essere i film di Tom Ford, in realtà all'interno di una cornice di questo genere si muovono inquietudini profonde, tant'è vero che uno degli argomenti, uno degli aggettivi con cui più spesso si definiscono le opere di Hopper è perturbante. E il film di Tom Ford, così come il libro di Austin Wright da cui il film deriva, tratta di questo, cioè di una superficie perfetta sotto la quale si muovono dinamiche anche molto violente. La particolarità che mi piace sottolineare è che se il libro da cui il film è tratto di Austin Wright si intitola Tony e Susan, nel film invece lui si chiama Edward come Hopper. Non penso che sia voluto, però è una cosa che mi ha incuriosito. E allora questo è Animali Notturni, grazie a Ilaria Floreano, autrice del libro su Edward Hopper, Volevo dipingere la luce del sole. Noi diamo la linea invece alla viabilità. Tra poco torniamo con un altro film, si intitola Per mio figlio, sarà con noi Boris Sollazzo. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, La Rosa Purpurea prosegue, abbiamo detto, con un altro film, anche qui le atmosfere sono piuttosto inquietanti, si intitola Per mio figlio, il titolo originale era Mocha, è un film che è passato al Festival di Locarno nello scorso mese di agosto, di Frédéric Mermoz con Emmanuel DeVos e Nathalie Baillet, coppia di attrici in grande spolvero per questa storia che sarebbe piaciuta tanto ad Alfred Hitchcock. La polizia ti ha detto niente? Hanno detto che le indagini sono ancora in corso, è normale. È normale? A te sembra che sia normale? Hanno sentito la gendarmeria francese e vogliono collaborare. Ci vuole pazienza. Diane, è stato un incidente. È stato un incidente, avete sentito. Diane Kramer, tormentata dalla morte del figlio, che è stato travolto da un'automobile che poi non si è fermata. Questa donna perde le sue certezze e comincia a coltivare solo un desiderio, quello della vendetta e soprattutto quello della giustizia, quello di cercare, trovare l'automobilista che non si è fermato. E lo può riconoscere solo da una cosa, dal color moca, appunto, della sua auto. È l'unico dettaglio che i testimoni sono riusciti ad osservare, e piano piano questa ricerca si stringe. La donna parte, comincia a vedere tutte le macchine color moca di una certa zona, pian pianino risale a una macchina che era guidata da una donna bionda, Nathalie Baillet, appunto, che nel frattempo è lì a fare la sua vita di estetista in questo salone, appunto, a Losanna. Fra le due, da una parte proprio come strategia, dall'altra senza saperlo, inconsapevolmente, nasce quasi un'amicizia, il tentativo di Diane di entrare piano piano nella vita dell'altra donna per riuscire a carpirne le certezze proprio di essere stata lì quella sera quando è successo il fattaccio che le ha portato via il figlio. È un film di discesa agli inferi, potremmo dire, che Emmanuel DeVos veramente tiene sulle spalle in maniera magistrale dall'inizio alla fine. Poi magari la regia è un po' semplice, la storia non ha particolari colpi di scena, è un lento e progressivo rimando, anche se poi alla fine si capisce che la verità non è mai la prima che ti salta in faccia, e che questa famiglia ne nasconde tante di verità che devono essere svelate. Boris Sollazzo in collegamento con noi, ciao Boris. Ciao Franco. Allora, Mocha l'avevi visto anche tu a Locarno quest'estate, un film che è piaciuto molto a Piazza Grande, al pubblico di Piazza Grande, film che, come dicevamo, può avere anche una sua lettura gialla che ci rimanda proprio al giallo più classico del cinema. Sì, assolutamente sì, è un film interessantissimo perché è un film tutto di recitazione e di scrittura, ancora più che di sceneggiatura, proprio di scrittura. Che ha una sua forma pesante, pensante e filosofica, Ed è una riflessione sull'effetto che può fare su una persona apparentemente equilibrata, salda, solida, l'effetto che gli può fare la morte, la dipartita di una persona cara, in particolare quella dipartita inspiegabile, ovvero sopravvivere a un figlio, sopravvivere a chi è troppo giovane per morire, e quanto la morte può sviluppare in questa stessa persona qualcosa di morboso, di altrettanto inspiegabile e irrazionale, e fin dove ti può portare quell'evento. Sono d'accordo con te quando dici che Mermoud sceglie uno stile di regia fin troppo semplice, anche stereotipato in alcuni momenti e in alcune delle microstrutture narrative del suo film, ma credo che lo faccia di proposito, perché sceglie due attrici straordinarie, Nathalie Baillet e Emmanuelle Devaux. Pensiamo solo al film di Bellocchio, a quanto la Devaux riesce a riempire un personaggio, un comprimario, con quella, anche la sua fisicità inquietante, nervosa, diversa, e come riesce a farlo qua, in questa parte di madre che vuole vendetta, vuole giustizia, forse vuole solo una spiegazione a quella morte, vuole mettere in pace la sua coscienza e la sua anima con questo atto di ingiustizia suprema che la vita gli ha fatto. Ed è molto interessante, perché di solito la morte è qualcosa che schiaccia il cinema, che è un evento che schiaccia con modelli narrativi piuttosto classici. La narrazione invece Mermoud fa uno scatto in avanti in questo, grazie a queste due donne, grazie a quel rapporto che costruisce in maniera davvero mirabile, non scontata, in cui non si fa mai prendere la mano dalla morbosità pur utilizzandola, in cui non si fa mai prendere mano dal patetismo pur sfiorandolo ogni volta. Ecco, è un film di grande misura, sia delle due attrici che giocano in sottrazione pur andando a toccare temi e andando a toccare sentimenti molto forti, sia per il regista che in qualche modo si nasconde per dare spazio alla storia e per dare spazio a questa recitazione. Per mio figlio è davvero un film molto interessante, come dicevo prima, proprio per l'aspetto filosofico che va a toccare e per come sa trattarlo, per come sa poi andare a raccontare i misteri della vita e della morte, perché poi forse i misteri della vita in questo film, che parte da una morte così tragica, così lacerante, sono ancora più interessanti, e in fondo forse il personaggio di Emmanuelle Devaux torna a vivere dopo che la sua vita si era spenta, dopo la morte del figlio, proprio perché riesce in qualche modo non a trovare pace, ma a trovare una spiegazione. E questo rende secondo me il film molto potente, molto interessante e molto solido, e lo rende un film che secondo me ha un suo valore molto grande, ecco, nell'economia anche del cinema francese, anche nel genere giallo noir tipicamente francese, che viene un po' rivoluzionato da questa visione. Quest'auto è sua? Buongiorno, è lei che mi ha chiamato? Mi dispiace, ma ho già un acquirente. Scusi se insisto ancora, ma che cifra le ha offerto? Un po' meno di quello che avevo chiesto. Posso darle di più? È bella. Di che anno è? È una SL del 72, è un modello raro. La posso provare? Adesso. Se non è troppo disturbo. No, no, no. Lei ha ragione. Le auto vanno provate. E allora, dopo aver raccontato Per mio figlio, noi giochiamo invece per noi stessi, cioè il nostro DVD game, il nostro film misterioso da indovinare. Sono l'ultimo che dovrebbe stare qui. Banale eccesso di velocità. Per il giudice correvo troppo, io, vostro onore, a essere sinceri, è vero, mi avete beccato. Chi hanno beccato? A quale film appartiene questa clip? Scrivetecelo alla Rosa Purpure a @radio24.it con il titolo del film e il vostro indirizzo. Ci sono due Blu-ray di questo film che vi aspettano, film che sveleremo fra pochi minuti prima della fine della nostra trasmissione. E dedichiamoci adesso invece a un altro film, ritorniamo ad atmosfere molto molto tese, una settimana così, questa piuttosto drammatica al cinema, ma fra poco insomma parleremo di animali fantastici, quindi come dire, ci rilasseremo un po' di più. Agnus Dei, film firmato dalla francese Anne Fontaine, per intenderci la regista di Coco Vanchanel, oppure di Gemma Bovary, tanto per stare in tempi più recenti. Una storia che prende le mosse da un diario, dal diario di una suora, di una dottoressa francese che nella seconda guerra mondiale in Polonia nel 45 andò a dare manforte a un convento di suore che avevano ricevuto forse la peggiore eredità di guerra, erano state stuprate da un plotone dell'Armata Rossa che era arrivato a liberare appunto la Polonia. È una storia incredibile, una storia che piano piano si svela agli occhi dello spettatore. Ascoltiamo la clip. Non deve temere, voglio assicurarmi che il bambino sia in posizione. Siostro, proszę się nie bać, chcemy tylko sprawdzić, czy dziecko jest zdrowe. Nie chcę iść do piekła. Teme la dannazione. So bene che può sembrare incomprensibile agli occhi del mondo, ma malgrado quello che ci è successo, dobbiamo onorare il nostro voto di castità. È la storia di due certezze che piano piano si sgretolano e si vengono incontro. Quella nella scienza assoluta, il rifiuto della religione da parte della giovane dottoressa Mathilde, appunto, interpretata da una grande Lou Delage. Dall'altra quella della fede religiosa, che non vuole mischiarsi col mondo, ma che deve farlo per questo gravissimo fatto che è accaduto. Pian pianino la dottoressa, notte dopo notte, entrerà in questo convento, diventerà un po' una di loro, letteralmente, e si svilupperanno dei rapporti che cambieranno per sempre la vita di tutte le persone in causa. Abbiamo incontrato Anne Fontaine a Milano, è venuta per la promozione del film e ci ha fatto molto piacere poterla intervistare. Uno dei temi che colpiscono lo spettatore in questo film è questo desiderio inespresso così forte di maternità da parte di queste suore, una maternità che è arrivata nel più brutale dei modi, ma che loro continuano comunque a coltivare in un mondo nel quale spesso invece questo sentimento viene rifiutato. Come è nata la storia di questo film? Elles ont donné leur vie à Dieu. Si parte da una situazione paradossale in cui ci sono delle donne che si trovano a vivere una condizione allucinante e a dare vita a degli esseri umani. Donne che in realtà hanno scelto di abbracciare Dio, hanno fatto una scelta importante, per cui la maternità non viene espressa in questo modo. Sono madri l'una dell'altra. Si trovano a dare la vita in una situazione crudele, un'esperienza che smuove non solo chi guarda, ma anche chi ha partecipato alla realizzazione del film. Siamo in guerra, è il 1945, un contesto dal quale è impossibile non rimanere scioccati. Il film è però anche molto attuale, perché episodi di questo tipo accadono anche oggi nelle zone di guerra e dove imperversa il fondamentalismo. Quando è venuto il primo incontro con questa idea di film, un'idea così drammatica, perché l'ha colpita l'idea di abbracciare una storia di questo tipo quando nella sua filmografia ci sono film sicuramente più leggeri, se non addirittura comici? J'ai rencontré il sujet en fait à travers deux producteurs. Sono venuta in contatto con questa storia tramite due produttori, i fratelli Altmaier. Sono venuti da me sostenendo di avere un'idea a cui non avrei potuto dire di no. Il film è tratto da una storia vera e quando mi hanno mostrato i diari di Madeleine Pouliac mi sono trovata davanti al racconto di questa dottoressa che era stata chiamata dalle suore in occasione di questo fatto. Sono rimasta colpita dal soggetto e così ho deciso di fare delle ricerche storiografiche. All'inizio avevo molti dubbi perché si trattava di girare un film storico in Polonia e di portare sullo schermo una storia particolarmente complessa e violenta, con il rischio costante di cadere nel sentimentalismo, proprio ciò che non volevo. Bisognava trovare un equilibrio. Più entravo nel soggetto, più venivano a galla le parti inconsce. In questo film il mio inconscio ha giocato un ruolo importante. Ho avuto un'educazione cattolica. Mio padre era un organista, le mie zie erano donne di chiesa. Quindi c'è stata un'identificazione molto forte. Come abbiamo detto, nel film si mischiano molto i linguaggi, ma anche i codici di comportamento. Una protagonista fortemente laica che a un certo punto comincia a capire il mondo delle religiose, così come le religiose a un certo punto iniziano a comprendere la laicità. Piace molto ad Anne Fontaine mischiare le carte? C'est d'avoir une femme qui est pragmatique, scientifique. Sicuramente è questo miscuglio a salvare la situazione e la vita di queste donne. C'è un medico, una dottoressa molto pragmatica, una scienziata che si trova a vivere un'esperienza in un mondo in cui è impossibile essere totalmente razionali. È da questo miscuglio che si crea un risultato inedito, che porta a una soluzione positiva della storia. È un film sui diversi modi di vedere la fede. Non è semplicemente una contrapposizione tra laici e religiosi. Viene rappresentata sì la fede cristiana, ma anche quella nell'amore e nel prossimo. Diversi tipi di fede, insomma. Contro la foi laïque, ce serait idiot. Voilà, scientifique. Anne Fontaine alla Rosa Purpurea, la nostra intervista per A News Day, film assolutamente da non perdere per chi ama le tinte forti. Fra poco invece, come dicevamo, alleggeriamo con Animali Fantastici e Dove Trovarli. La Rosa Purpurea. Lei è quello con la valigia piena di mostri, eh? Le notizie volano. Speravo che fosse in grado di dirmi se ci sono stati avvistamenti, tracce e cose così. Lei ha una bella taglia sopra la testa, signor Scamander. Perché aiutarla, invece di consegnarla? Immagino che dovrò convincerla in qualche modo. Lo consideri il costo del coperto. E allora, abbiamo sentito una clip di Animali Fantastici e Dove Trovarli. Avete sentito, siete entrati subito nelle atmosfere del nuovo film che non appartiene alla saga di Harry Potter in maniera, diciamo, stretta, ma che sicuramente di quella famiglia e figlio da lì viene, e non fosse altro che la produzione e la sceneggiatura sono di J.K. Rowling, non fosse altro che c'è questa sorta di spin-off, di questa guida per gli Animali Fantastici e per Dove Trovarli, che diventa a sua volta film, solo che il libro era fatto proprio sotto forma di guida, qui c'è dietro appunto una sceneggiatura. Però le atmosfere sono quelle sempre della magia, del mondo dei maghi e di quelli non maghi, i nomag appunto, i cosiddetti babbani, c'è qualcosa da scoprire, c'è un male che alligna, in questo caso nella New York del 26, quindi parecchi decenni prima i fatti di Hogwarts, c'è una persona, un ragazzo, Eddie Redmayne appunto, che gira con questa valigia piena di valigia senza fondo, potremmo dire, piena di animali di tutte le dimensioni che quando entrano lì ci stanno e quando escono fanno davvero un po' di confusione. Ma c'è una New York che è, come dire, ottenebrata da un male che non si capisce bene quale origine abbia, ma che sta distruggendo anche proprio fisicamente la città. Ovviamente i nostri eroi, i nostri ragazzi dovranno, forse anche grazie all'aiuto di questi animali fantastici, risolvere la situazione. Cast, abbiamo detto, Eddie Redmayne, sempre più versatile ormai nella sua carriera, Colin Farrell, Ezra Miller, John Voight, ci sono Samantha Morton, ci sono davvero una serie di nomi importanti, ma quel che conta, secondo me, Boris, e ritroviamo Boris Sollazzo, è la regia di David Yates, che io ho trovato molto convincente anche quando la sceneggiatura a volte un po' lo tiene per le briglie, perché la prima parte è un po' faticoso, oggettivamente si fatica ad entrare in questa storia, si dà molto per scontato, vale molto il non detto, e però quando poi il film prende il suo ritmo, diventa, direi, quasi più godibile di alcuni degli ultimi Harry Potter. Vale il non detto e vale il già detto. Tu dicevi è figlio di Harry Potter, è pure un po' padre di Harry Potter, essendoci questa madre figlia che è J.K. Rowling, è anche difficile costruire una cronologia esatta, almeno ideale, tra due saghe che inevitabilmente si parlano. Sono d'accordissimo con te sull'aspetto della sceneggiatura che sostanzialmente fa apparire questo film come un diesel. La prima parte non possiamo neanche definirla lenta perché sarebbe ingiusto, ma è davvero appunto come un diesel, fa fatica a rodare. Sia per il non detto, sia perché non ha chiaramente l'abbrivio che ha Harry Potter, non è un romanzo di formazione, da una parte una guida e dall'altra la costruzione di un universo a freddo, quindi non hai un personaggio forte come quello di Daniel Radcliffe che crescendo ti porta all'interno di una storia e ti fa sentire parte di un universo. Questo però è anche la bravura di David Yates, degli sceneggiatori e della stessa J.K. Rowling, che scrive, a differenza di Harry Potter, il film in prima persona, perché la sfida narrativamente è molto più complessa e complicata. Credo che noi sapremo recensire in maniera completa e complessiva questo film solo dopo aver visto gli altri quattro, visto che si parla di una pentalogia, perché chiaramente l'impressione che almeno metà del film sia propedeutica e preparatoria a tutto quello che vedremo in futuro è molto forte. Di sicuro la seconda parte però è un ottimo film, con un immaginario che ha il pregio di essere autonomo e indipendente rispetto a quello di Harry Potter, pur avendo molti debiti e probabilmente anche crediti riguardo a quello, perché la sceneggiatura è di fatto originale, perché quella guida era un raccontino di poche pagine e tutto ciò che insomma è narrazione in questo film è inventato, è finzione cinematografica, e di sicuro... è molto interessante questo personaggio di Redmayne che riesce a sopravvivere alla prima parte in cui appare quasi alienato, appare quasi lontano dalla narrazione, per poi crescere piano piano con una sua forza personale, un suo carisma personale. Quindi non possiamo che promuoverlo, Animali Fantastici, fosse solo per essere uscito dalla schiavitù di Harry Potter, sfruttandone la parte migliore. Si poteva essere visivamente più coraggiosi, penso per esempio a questa valigia straordinaria che forse poteva essere inquadrata meglio, poteva colpire di più il nostro immaginario, ma nel complesso ci troviamo di fronte a un film davvero molto molto interessante, come un buon libro, bello corposo, dovete riuscire ad andare oltre le prime 50-60 pagine che possono sembrare più ostiche, per poi godervi qualcosa che però vi rimane nella testa, come appunto quegli Animali Fantastici. Era aperta? Solo un pizzico. Quel bizzarro snaso è di nuovo in libertà? Potrebbe. E cerchiamolo! Guardi! Oh, mi sanguina il collo. È ferito! Oh, si svegli, signor Nomag! Buon Luis, che cos'è? Niente di preoccupante. Questo è un purvincolo. Che altro ha lì dentro? E allora, grazie a Boris Sollazzo, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, Animali Fantastici, e dove trovarli? Sicuramente non si fa fatica a pronosticarlo in testa alla classifica alla fine del weekend. Noi giochiamo ancora insieme con la seconda traccia del film misterioso. Come ti chiami, Al? Ti ho già visto fare cose strane, vero? Oh, ecco, sono molto bravo non a suonare il... Lanciatelo! Ah! Oh, promette bene! Ce la fa! Davvero incredibile! Stiamo scrivendo la storia, ragazzi! E allora, il titolo del film, il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che sveleremo fra poco, la rosa purpurea @radio24.it è come sempre l'indirizzo di posta elettronica per partecipare al nostro DVD Game. Parliamo di festival perché è cominciato proprio in queste ore il Torino Film Festival, che come sempre darà una visione del mondo del cinema tutta particolare, quella di Torino, quella più legata a una cinefilia popolare, chiamiamola così, no? Non film blockbuster, non troppo di nicchia, ma la capacità di ragionare attorno al grande cinema, andando però a scoprire qua e là le pellicole, le novità, i nuovi autori che si affacciano. Abbiamo parlato prima di Anne Fontaine, per esempio, aveva aperto il Torino Film Festival 2 anni fa con Gemma Boveri, ecco, tanto per darvi l'idea. Anche quest'anno non mancheranno grandi nomi e grandi film. Noi ne parliamo con Emanuela Martini, direttrice artistica del Torino Film Festival, che è in collegamento con noi. Ciao Emanuela, subito un nome italiano, Andrea De Sica. Fa un certo effetto vedere in campo la terza generazione di un cognome che ha significato molto per il cinema italiano. Lui è il figlio di Manuel, che stavolta però si butta su suggestioni di genere con questo film, I figli della notte, che è l'unico film italiano in concorso. Nipote che non insegue le tracce del nonno, mi sembra anche che sia giusto, sono passati un sacco di decenni e abbastanza chiaramente le fonti di ispirazione di Andrea De Sica sono, diciamo, più contemporanee, più recenti di quanto non sia stato il cinema di Vittorio De Sica. Sono tracce di ispirazioni che vanno da Lynch agli horror, a If di Lindsay Anderson. Se vogliamo citare qualcosa di italiano, secondo me è più il cinema di Bellocchio che può avere ispirato il giovane De Sica. Emanuela, tra i film che si vedranno a Torino, uno dei più attesi è sicuramente Sully, il nuovo, attesissimo film di Clint Eastwood, interpretato da Tom Hanks. Che Clint dobbiamo aspettarci? Beh, vi dovete aspettare il Clint classico. Sully è il tipico eroe eastwoodiano e avrebbe potuto essere il tipico eroe fordiano, tipico eroe americano, nel senso migliore del termine americano. Non dico che fosse prevedibile, ma non c'è da stupirsi che appunto quello che è stato definito il miracolo sull'Hudson, cioè l'ammaraggio dell'aereo nel 2009 con tutti quanti salvi, potesse attrarre un autore come Clint Eastwood. Comunque è una storia americana molto classica, e Clint Eastwood è appunto l'ultimo dei grandi classici probabilmente come autore. Forse però la proiezione che marchia questa edizione a fuoco è la versione integrale da 192 minuti di Intolerance di Griffith, capolavoro del cinema delle origini, che proprio quest'anno compie 100 anni, copia restaurata dal MoMA di New York. Intolerance di Griffith è un film enorme da tutti i punti di vista, cioè sia dal punto di vista della durata, ma è enorme per il tipo di storie che Griffith ha immaginato. Sono 4 episodi del passato, cioè 3 del passato e 1 a lui contemporaneo, quindi gli anni 10, intercalati l'uno all'altro, non in successione, ma intercalati l'uno all'altro, 4 episodi che raccontano dell'intolleranza umana in maniere diverse. Per dire, uno è la crocifissione di Cristo, tanto per capirsi, e i cui ritmi si fanno sempre più accelerati via via che si arriva alla brutalità, alle stragi, alle esecuzioni finali. Con questo film Griffith si è inventato, o comunque ha perfezionato, un mucchio di cose che sono diventate poi il linguaggio del cinema di tutto il mondo. Grazie Emanuela Martini, buon Torino Film Festival, fino a tutta la prossima settimana. Ed è giunto il momento di sentire come vanno le cose sulle strade. Fra poco torniamo insieme e parliamo di musical. Sarà con noi Saverio Marconi per raccontarci la versione musicale dal vivo di Sister Act. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta La Rosa Purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea, siamo arrivati all'angolo che dedichiamo di solito al cinema ovunque sia, no? Il nostro motto è tutto il cinema che c'è, perché c'è cinema in tante altre discipline. Abbiamo cominciato con la pittura di Edward Hopper, chiudiamo con il musical, con Sister Act, che ha esordito a Milano, il musical con appunto gli spartiti, le note di Alan Menken, del grande Alan Menken, che è basato, diciamo appunto, prende le mosse proprio da un film, dal omonimo film Sister Act del 1992. È con noi al telefono uno dei re assoluti del musical italiano, Saverio Marconi. Ciao Saverio, come stai? Ciao a tutti, tutto bene? Tutto bene. Come sei bello pimpante, ci piaci così. Allora Saverio, portare in scena questo nuovo Sister Act, perché mi sembra che ci siano parecchie novità anche rispetto all'ultima versione musical che era circolata in Italia. Sì, sì, sì, questa è una versione più mia, più nostra, più italiana, diciamo, evviva. Sono molto contento perché lo spettacolo riscuote un ottimo successo, e poi la storia è indimenticabile, molto molto divertente, ed è quella praticamente del film, non è che cambia molto. Le cose che cambiano è la musica di Alan Menken, che è pimpantissima, si rifà agli anni 70, quindi è un musical godibilissimo. Senti Saverio, il film originale aveva ovviamente in Whoopi Goldberg l'elemento cardine, quello che tutti forse ricordano di Sister Act è proprio la prova straordinaria di Whoopi Goldberg nei panni appunto della suora. Chi è la tua Whoopi Goldberg? Ah beh, è una ragazza spagnola con una grande voce, fortissima, divertentissima, e la cosa più divertente di questa attrice è proprio quella di essere di una spontaneità senza fine, sembra che viva così, insomma. Quindi è uno spettacolo dove la protagonista è importante, ma c'è certo anche tutti gli altri. Ecco, tra tutti gli altri, tra l'altro, c'è Suor Cristina, che è un personaggio di grandissima popolarità, di talento vocale clamoroso, e che tu hai portato addirittura su un palco. Ma come hai fatto, Saverio, a portare una sorella vera sul palco? Ma perché a lei è piaciuto molto questo ruolo, perché in fondo è il ruolo di una novizia, una che c'ha un dubbio, c'ha il dubbio che poi dopo questo dubbio sparisce e decide di fare la suora. Quindi era proprio giusta, è brava, fra l'altro bravissima, oltre che a cantare, lei balla insieme a tutti gli altri e soprattutto recita molto bene. Quindi quando gli feci il primo incontro, capii che questa poteva essere un'ottima occasione per lei per portare avanti anche il suo discorso, perché lei fa tutte queste cose sempre con molta fede. Sì, sempre con la sua missione, abbracciando la sua missione. Questa esattamente, è veramente... ed è questa la cosa meravigliosa di una cosa straordinaria. Allora, Saverio, appuntamento per il momento agli Arcimboldi di Milano. Quanto vi fermate a Milano? Credo 2 settimane. Ecco, 2 settimane a Milano, ma poi c'è una lunga tournée che aspetta Italia. Va tutta Italia. Si va ovunque. Grazie a Saverio Marconi, Sister Act, il musical da adesso, gli Arcimboldi di Milano e poi in tutta Italia. Grazie per essere stato con noi alla Rosa Purpurea. Grazie a voi. E allora dal grande musical al cinema da vedere in casa, cominciamo a risolvere il game della scorsa settimana. Dobbiamo muoverci ora, abbiamo solo 30 secondi. Conoscete il piano? Ragazzi, che c'è? Si è buttato? D'accordo, uno per tutti. Fermo, non hai il paracadute. Non me ne serve uno, ho la mia tavola. Ve l'avevamo detto, si trattava di Tartarughe Ninja Fuori dall'ombra. I nostri ascoltatori più preparati e che vincono il Blu-ray di questo film sono Tommaso Ricci di Meda, provincia di Monza Brianza, e Luca Conticelli di Roma. Saranno loro a ricevere il Blu-ray di Tartarughe Ninja, che ci facciamo raccontare in tutti i dettagli dagli amici di Film TV. E con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, tra i personaggi più amati perché è cresciuto negli anni 80 e 90, tra i Tartarughe Ninja, ovvero Leonardo, Michelangelo, Raffaello e Donatello, hanno subito nel 2014 il restyling del reboot, della ripresa prodotta da Michael Bay, di cui Fuori dall'ombra questo film è il secondo capitolo, in cui i tartarugoni amanti della pizza e della giustizia vivono appunto nell'ombra, senza che il loro status di eroe possa essere riconosciuto pubblicamente, fino a che il ritorno del cattivo storico Shredder non li porta a uscire appunto da questa zona d'ombra e a sventare una tragedia di scala mondiale. Il Blu-ray è capace di mantenere perfettamente quelle che sono le caratteristiche dei film prodotti da Michael Bay, ovvero l'action fracassona, le sequenze digitali a rotta di collo, tipiche proprio del cinema di questo regista e produttore. E il DVD e il Blu-ray presentano un buon numero di extra con scene tagliate approfondimenti. Ecco Giulio, le segnalazioni TV questa settimana sono tante, allora ti chiedo di affrontarle tutte insieme, perché c'è una sorta di verticale di Ingmar Bergman la settimana prossima nei palinsesti TV. Sì, Rai Movie propone una settimana intensa in cui è possibile svegliarsi e sbugiardare, almeno per i cinefili, quello che è un luogo comune, quello che la vulgata fossilizzata nello stereotipo del cinema d'autore serioso e noioso, in realtà è un regista in cui filmano una tensione psicologica più di moltissimi thriller. Le sue commedie umane sono molto più ritmate della maggior parte delle commedie contemporanee. Parliamo di Ingmar Bergman, uno dei giganti della storia del cinema mondiale. La galleria di film che proponeremo inizia lunedì alle 6:50 di mattina con Sorrisi di una notte d'estate, una commedia volutamente frivola. Martedì alle 6:20 Il settimo sigillo, la famosissima partita a scacchi con la morte, che è un racconto medievale cupo ma è anche buffo e barocco. Al mercoledì alle 6:40 uno dei suoi film più famosi, Il posto delle fragole, che ha come protagonista un grande regista, Victor Sjostrom, visto che i film di Bergman sono spessissimo film anche sul modo di fare cinema, e il viaggio di questo anziano verso una meta che è soprattutto un viaggio verso se stesso e i suoi ricordi. Giovedì alle 7:15 La fontana della Vergine, che è una straordinaria parabola sulla violenza e la maternità, che tra l'altro ha ispirato Wes Craven e la sua ultima casa a sinistra. Venerdì alle 7:35 finiamo con In uno specchio, che è il film che apre uno dei periodi più intensi del cinema bergmaniano, che è la trilogia sul silenzio di Dio. Insomma, un buon modo per sbugiardare un luogo comune della cinefilia. Grazie a Giulio San Giorgio, a tutti gli amici di Film TV. Ciao Franco, alla prossima settimana. E allora la base ci dice che siamo arrivati alla fine della trasmissione. Prima però sveliamo il nostro film misterioso di oggi. Si trattava di Angry Birds. L'appuntamento per chi l'ha indovinato e per scoprire i vincitori è la prossima settimana, come sempre alle 18, qui su Radio 24 con la Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è.